radio. Cosa? Non ti ho capito. Ci avevi tutto un fischio. Ah, boh, non lo so. Ecco il tuo fischio. Ancora c'è? No, insomma, probabilmente avevi qualche cosa accesa. Ah, è probabile. Ma hai tu. Lo sai, devo ascoltare. Già lo so, c'è la centrale operativa. Centrale operativa Socio Signori. C'è uno da ogni parte. E quello è importante. Comunque, quando vuoi mettere quel ripetitore lì in campagna mia, dimmelo. Ragazzi, ma non basta il periodo di pensione in 2-3 giorni. No, per anzianità non ti arrestano. Carità. No, io gli dico che è tua. Ebbene, la campagna che è? Tu gli dici, la campagna è la sua, di chi è? Mio. E dove te vuoi prendere il VHS? Cosa? Mi stai cercando nel VHS, come vuoi? Beh, magari c'è le antenne vicine. E quello sì. C'è lì su, allora? E allora lo devo separare. Sì, se no ti fanno le mini VHF. E poi la più brutta, non so quelle pulite. La brava, un casino, anche a settembre comincia ancora, sai. Macello. Ecco. E allora. E cosa secondo me la va? Ma niente, che mi stavo cercando un condensatore qua, di quelli ceramici. Adesso mi misuro anche questo, se non c'è un lampo. Se non è... ma dovrebbe essere buono. Allora, accendiamo il test e vediamo su uno vago da quanto è questo. Testing batteria, ok, addirittura 3779, cos'è? Vedi, basta la pellizia, giù. Ma lassù, se non sbaglia, non sbaglia questo. Beh, allora io me lo pongo in vendita, tanto non me ne faccio nulla. Questo condensatore variabile. Sì, hai sbaglio ragione io, no? Ti vai la bancarella? Ma tanto ne ho altri, io fra più grandi anche di questo che ci ho fatto vedere nel video. Sono di quei condensatori variabili dei lineari, capito, dei lineari quelli grossi. Ecco, sì. Ma se ti vola a vedere, a un qualsiasi cosa, con variatore lo puoi mettere a qualsiasi parte. Cazzo, sì. Fatto bene. Ecco là, l'hai fatto bene. Gara. Ragazzino. Oh, lui, ci sentiamo dopo, mi devo allontanare un attimino. Ascoltati quel messaggio dopo. Mandami un messaggio sul telefono. Aspetta, devo uscire veloce.